Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Buonasera da Federico Taddia, Terra in Vista, puntata speciale. Siamo in diretta nello stand Cibus e Italia, nella postazione di Radio 24, un'ora insieme per festeggiare un po' il viaggio che abbiamo fatto per raccontare l'Expo ai più piccoli. E sarà una puntata particolare con tanti ospiti e non solo, fra pochissimo ascolterete una bellissima sorpresa, ma do subito il benvenuto al mio compagno di viaggio Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao Federico, eccoci alla gran finale. Eccoci alla gran finale di questo, insomma, bellissima esperienza, perché questa scusa di raccontare l'Expo ai bambini è diventata un'occasione bellissima per raccontarlo anche ai più grandi, ma soprattutto noi, forse anche per capire tantissime cose e per capire un po' di più forse il nostro posto nel mondo, perché siamo partiti, se ti ricordi, dal cibo, dalle melanzane, dalle zucchine, dalla cucina italiana, però siamo andati a parlare di sostenibilità, evoluzione dell'acqua, del clima e alla fine poi di spreco, di futuro. Insomma, abbiamo fatto un grande viaggio in tutto il mondo. Questa sera ripasseremo questo viaggio, però c'è un aspetto, soprattutto dei frutti della terra, in particolare delle verdure, che non abbiamo toccato, e ve lo facciamo ascoltare. C'è della verza, un cavolfiore, un peperone, una melanzana, un finocchio, zucchine, pomodoro e soprattutto due musicisti che stanno orchestrando questo strano concerto, anzi questo strano concerto. Do il benvenuto a Gianluigi Carlone, lo conosciamo essendo il cantante della band Osiris. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno. E Biagio Bagini alla chitarra, scrittore per ragazzi e autore. Ciao a tutti. Eccolo lì, stiamo giocando anche con i microfoni. Gianluigi, cosa vi siete inventati? Allora, abbiamo inventato un concerto, quindi per verdure. Noi siamo orticoltori ma anche musicisti, quindi siamo ortisti, potremmo definirci. E tra l'altro tu stai scherzando, ma sei perito agrario nella vita? Sono perito agrario, ho tradito la terra subito, praticamente il giorno dopo che mi sono diplomato per la musica, 35 anni con la banda, ma sono ritornato alla terra finalmente e ho cercato di dare voce alle verdure. Nel nostro orto noi sentiamo le verdure che parlano, sentiamo le voci, e allora abbiamo pensato di, con l'ausilio della tecnologia, con Arduino, il famoso modulo Arduino, che ne avrete parlato sicuramente nelle vostre trasmissioni, vero? Cioè, se abbiamo fatto... Non ancora. Non ancora. Io e Arduino. Era... Certo, io e Arduino. Praticamente questo Arduino decodifica la voce delle verdure, così possiamo sentire le verdure che suonano, il suono delle verdure. È già al conservatorio questa roba? Non conserva, ecco, infatti. Parlando, che con te è complicato parlare seriamente di queste cose. No, ma questo modulo che utilizzo è al MoMA a New York. Ah, ho capito, perfetto. E poi ascolteremo anche le canzoni, sì, che avete composte accompagnate da queste, certo, musiche, ma lo faremo dopo nel corso della puntata per non svelare tutto. C'è già pubblico incuriosito da... qual è la tua verdura preferita? La mia verdura preferita, devo dire, che è il cuore di bue. Il cuore di bue, il pomodoro. Il pomodoro. Il pomodoro, che è un suono particolare. Ha un suono proprio di cuore, diciamolo, sì, è quello che trasmette proprio l'amore. Ho possiamo capito. Definire. Tanto c'è Bono degli U2 insieme a Pomo. Pomo degli U2, qui, esatto. Ok, perfetto. A Expo. Vabbè, preparate le canzoni, poi ascolteremo quello che avete combinato con questo concerto. Tra l'altro, questa sera alle 21 saremo anche nella piazzetta Coop per fare un concerto live, un viaggio con queste frutte e verdure. Insomma, una serata molto movimentata. A proposito di Expo e movimento, ho scoperto. Questa è bella, è molto da terra in vista, no? Che non avere la testa ad Expo cosa ti porta? Ti porta magari a perdere degli oggetti. Elena, cosa sta succedendo ad Expo? Già ridi, eh? Buonasera a tutti. Buonasera. Aspetta che ti presento. E do il benvenuto ad Elena Bella Cicca, fondatrice della startup Find My Lost. Che cos'è? Find My Lost è la prima web application che permette di mettere in contatto chi perde un oggetto con chi lo ritrova. E se a me uno piace... perde una verza ad Expo, adesso è il primo oggetto che ho visto sul tavolo, E una, cioè questa applicazione non è tanto l'oggetto che viene perso, ma l'oggetto che viene ritrovato, e cosa succede? Esatto, funziona in un modo molto semplice. Nel momento in cui si ritrova un oggetto, bisognerà registrarsi alla piattaforma anche tramite in futuro i principali social network come Facebook o Google Plus, fare una foto da cellulare o da tablet, caricare appunto questa foto nella piattaforma, scrivere appunto, decidere la data in cui è stato ritrovato l'oggetto, il luogo, geolocalizzarselo e poi appunto inserire le caratteristiche principali. A questo punto l'oggetto andrà nel sistema e chi ha perso l'oggetto potrà attraverso lo stesso iter cercarlo e quindi registrarsi, scrivere le principali caratteristiche dell'oggetto perso e a quel punto andrà in contatto con la persona che l'ha ritrovato. E in futuro, ora nel breve, inseriremo anche la possibilità di dare un reward, quindi una sorta di ringraziamento monetario al ritrovatore. Ah, ok. Quindi se uno perde lo smartphone però non può più fare niente, non può fare la foto, non può andare sui social. Quindi... potrà da computer, da perché computer, è anche una web application e quindi può sia da computer che da tablet. Elena, adesso arriviamo ad Expo come luogo dove vengono persi tantissimi oggetti, perché è dove di fatto hai anche sperimentato concretamente questa idea. Ma da Expo anche parte il tuo progetto, perché hai vinto un importante premio. Sì, ho vinto il premio Vivaio nell'ambito del concorso We Women for Expo, che era un concorso a livello nazionale dove hanno partecipato più di 100 progetti, dove le fondatrici erano donne, principalmente donne. Ho vinto questo bando da lì, diciamo, ho avuto la possibilità di accedere ad Expo, al Comune di Milano e poi alle altre realtà che stiamo targetizzando. È stato un bando che è stato promosso da Expo e da Padiglione Italia e sono stata premiata da Accenture, che mi ha conferito un premio monetario. Ok, ma l'idea ti è nata partendo da Expo? Cioè, hai detto ci sarà Expo, quindi tanta gente, quindi perderanno tante cose, perché non partire con questa idea? O è un'idea che ti porti dietro da tempo ed Expo è diventata veramente l'occasione per testare lo spunto, la tua intuizione? Ma in realtà mi è venuta in precedenza. Sarà successo anche a te magari di camminare per strada, vedere magari un cappellino, un guanto, un orecchino, un mazzo di chiavi. In genere quando si ritrovano oggetti per strada non si riesce a capire chi è il reale proprietario, no? Quindi magari si mettono in punti dove sono più visibili oppure si portano all'ufficio degli oggetti rinvenuti del comune, della città dove ci si trova. Ma non esiste al momento, non esisteva prima di Find My Lost, un servizio appunto che mettesse in diretto contatto chi perde un oggetto con chi lo ritrova. E da lì insomma è nata la mia idea, poi ho visto che c'era questo bando di Expo dove rientravo per caratteristiche di innovazione, sostenibilità economico-finanziaria e quindi ho fatto l'application e ho vinto. Terra in svista, più che terra in vista, questo spazio. Qui ho dei numeri che sono significativi. Mi hai dato due classifiche. La prima è territoriale, geografica, cioè dove si perdono le cose in Expo. Al primo posto il Decumano, poi c'è Italy, il padiglione del Giappone, il padiglione del Brasile, Triulza. È tutta casualità o hai trovato una qualche correlazione tra il luogo e la facilità di dimenticare o di perdere qualcosa? Beh, il padiglione del Giappone è quello che mi ha sorpreso di più, perché si sa che i giapponesi sono le persone più oneste, quindi sì, di fatto sono forse il padiglione rende le persone più distratte, visto che si perdono così tanti oggetti, ma poi effettivamente quegli oggetti vengono raccolti e consegnati all'ufficio Lost and Found interno ad Expo, che per il primo giorno vengono raccolti nell'ufficio che si chiama B2 e poi vengono spostati al secondo giorno in un altro ufficio nel mezzanino, dove rimangono per circa una settimana e successivamente vengono spostati all'ufficio di via Friuli in centro a Milano. E cosa si perde ad Expo? Pare che l'oggetto più perso siano gli occhiali. Al momento sono stati persi e rinvenuti e non ancora restituiti circa 700 occhiali, che insomma un bel numero. Poi seguono gli oggetti più classici, quindi gli indumenti, cappelli, borse, chiavi e ci sono anche al momento un centinaio di telefoni che sono stati persi e non ancora restituiti. È stato trovato anche qualche oggetto strano o curioso che tu sappia? Che ne so, cioè per esempio è vietato introdurre alla barra cade, no? Cioè, c'è proprio nel, tra gli oggetti che non si possono introdurre ad Expo, mi sembra che ci sia anche l'alabarda. È stato trovato qualcosa di curioso? Sì, sono stati ritrovati oggetti anche particolari, diciamo, come per esempio sex toys oppure arti artificiali, quadri. Quadri? Esatto. Hai detto quadri? Sì, sì, sì, esatto. Perfetto, insomma, è benissimo. E dacci l'indirizzo per scoprire, vedere tutto ciò, per conoscere meglio appunto il tuo progetto. Allora, potete registrarvi dal link www.findmyloss.it, al momento è una web application che diventerà a breve anche una pura application. All'interno della piattaforma poi c'è una sezione dedicata a Expo e al Comune di Milano. Perfetto, tu hai perso qualcosa? Non ancora. Benissimo, eccoci qua. Grazie davvero, complimenti Elena. Grazie a per voi. La bella idea, insomma, anche che dà punti di vista diversi su una grande manifestazione, un grande evento come questo. Telmo, sorridevi ascoltando questa no, cosa. È il Giappone, quindi il Giappone non è il padiglione dove si perdono più cose, ma dove le restituiscono di più. Sì. Uno perde un arto artificiale da quelle parti, sa che qualcuno glielo riporta. Diciamo. Poi c'è anche il Brasile, che il Brasile è molto divertente. Lì si gioca ma lì tanto, saltano, c'è quindi si rete, capisce quindi, che si perde quindi tutto. Quindi è anche facile perdere un quadro, per esempio, perché è normale andare ad Expo con un quadro. Va bene. Telmo, torno a te. Non è ovviamente una puntata così di verifica di Expo, perché ci sono ancora due mesi, tantissima gente. Un po' col lavoro che abbiamo fatto, un po' anche quello che hai visto tu, sta passando il messaggio della sostenibilità e del bisogno che il pianeta ha di abitanti diversi? Ma io credo di sì. La partecipazione del pubblico è il segno che è stato azzeccato il tema, non c'è alcun dubbio. Nutrire il pianeta, energia per la vita ha fatto colpo, è andato a segno, e il messaggio mi pare molto forte è che ciò che alimenta davvero il pianeta è la biodiversità, è la diversità che si declina qui in Expo in tutti i modi, la diversità biologica, quella che abbiamo sentito adesso suonare, ma anche la diversità culturale, la diversità delle lingue, dei modi di essere. Mi sembra un messaggio molto importante e degno, se ci pensi, da sempre, dalla metà dell'Ottocento, delle grandi esposizioni universali sono state questo, dall'età del progresso, la metà dell'Ottocento, fino all'età oggi un pochino più incerta e postmoderna in cui viviamo. Ti riporto sulle piante, visto che le stiamo suonando. Tu sei esperto anche di piante, ricordiamo che sei tra i curatori del Giardino della Biodiversità, dell'Orto Botanico di Padova. Hanno un carattere, hanno un'intelligenza queste piante, qui vediamo delle verdure, però i vegetali in generale. Beh, sentendo Gianluigi come le fa cantare, direi di sì, ma in realtà hanno un'intelligenza tutta particolare. L'errore è di non pensare che siano intelligenti o che ci assomiglino per quanto sono intelligenti, ma pensare alle piante, come qualcuno ha detto qualche volta, un'intelligenza aliena, cioè un modo alternativo di vivere nel mondo. Sono estremamente sensibili perché non si possono spostare, però si muovono e hanno fatto il giro del mondo. Noi durante Terra in Vista abbiamo raccontato dei grandi viaggi delle piante. Le piante ci hanno reso globali a modo loro. E un altro elemento che potremmo anche raccontare in un prossimo ciclo di trasmissioni, se vuoi, è di come la stessa cultura italiana è nata dal dialogo tra le piante. Perché l'Italia è diventata una nazione politicamente parlando recentemente, ma lo è stata culturalmente da tanto tempo prima. E si è scoperto che la cucina, le cucine delle città, le cucine delle regioni, sono state uno degli elementi fondamentali che hanno creato questa rete che poi è diventata l'Italia. Pensa un po'. E parlando di Italia, di piante, soprattutto di biodiversità, l'Italia ha un piccolo primato, vero? Ma non lo dice mai nessuno. L'Italia, se tu chiedi agli studenti qual è il paese europeo con la più grande biodiversità, se tu fai un sondaggio rispondo la Svezia, la Francia, in realtà è l'Italia. Nonostante tutto, nel senso tutto il cemento che abbiamo distribuito, tutti i danni che abbiamo fatto, l'Italia ancora oggi per numero di piante e animali è la numero uno in Italia. E c'è una ragione precisa, ed è anzi due. La prima è che ha un territorio molto irregolare e questo facilita l'isolamento e quindi la differenziazione. E poi dentro questo territorio così irregolare, da sempre, da tantissimo tempo, ci sono state migrazioni, spostamenti. E se tu metti insieme l'irregolarità del territorio e le migrazioni e gli spostamenti, ottieni la miscela fondamentale della diversità, che è la ricchezza fondamentale del nostro paese. Questa è Terra in Vista, puntata speciale dal padiglione Cibus e Italia di Expo. Adesso chiedo al maestro Carlone, al maestro Bagini di prepararsi la pubblicità e poi rientriamo con un inno. A quale verdura? La regina, forse la melanzana. Lei è la regina. La melanzana, sì, sono tutte un po' regine, però visto che la canzone è sulla melanzana, diciamo che lei è la regina. La pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Settimana non si comporta bene e non sopporta bene la vicinanza delle zucchine. Forte prega. Guardala bene ancora, le basta una parola per fare un sugo buono, le basta il tuo perdono. Oh melanzana, io ti perdono, la vita in frigo è dura, se hai la pelle scura, lo so, lo so, lo so, lo so. Applauso noi qua dallo studio, perché non era neanche facile rimanere seri, perché sì, insomma, tra il testo che non aiuta, queste verdure in musica. Un grazie a Gianluigi Carlone, a Biagio Bagini. Questo è il concerto. Questa melanzana, però sai che c'è già una protesta ufficiale che è arrivata a Terra in Vista. Sì. Ma anche il rapone. Il rapone, sì, ma perché è troppo di moda, il rap è troppo di moda, e allora noi il rapone non lo facciamo. Diamo il benvenuto a Valentina De Poli, direttore di Topolino. Ciao Vale. Ciao a tutti, eccomi qui, rapone scorbutico, diciamo bene, diciamo la verità, esatto. La protesta è arrivata da un tipo di rapone particolare. Allora, abbiamo il piacere di avere qua con noi Valentina, proprio per un po' parlare di quello, del com'è anche... raccontare, parlare di Expo, o meglio dei temi di Expo ai più piccoli. E siamo partiti dal rapone, che ricordiamo chi è, perché è stato, insomma, sì, un elemento importante. Durante tutta la canzone, che è meravigliosa, continuavo a pensare, mamma mia, se avesse qui il rapone scorbutico di Dinamite Bla, non so cosa riuscirebbe a fare. Perché niente, esiste questo rapone che è il frutto, in realtà l'ortaggio, che ha dato il via un po' a questo percorso molto approfondito e molto lungo che Topolino, con il settimanale, abbiamo cominciato addirittura nell'ottobre dello scorso anno, in occasione del Salone del Gusto di Torino, e appunto grazie a Dinamite Bla, che suo, cioè, senza saperlo in realtà glielo dicono, è detentore nel suo orto di questo particolare ortaggio che esiste solo sul cocuzzolo del misantropo e che quindi lui deve preservare, e che alla fine di questa storia che abbiamo pubblicato sul giornale gli darà anche la possibilità di vincere una gara culinaria detta del galà del Buzzurro, proprio perché era una gara in cui mai lui riusciva a dare il meglio di sé, perché tentava in tutti i modi di fare delle cose iper sofisticate e senza guardare quello che aveva nell'orto. In realtà, quando finalmente si preoccupa di dedicarsi a quello che lui ha lì e che ha solamente lui, vince la gara. Ma in tutto questo, grazie a Dinamite Blah, ci è venuto in mente di portare il rapone, sì, sull'Arca del Gusto di Slow Food, e lo abbiamo fatto davvero. Un rapone che adesso in realtà vive nel mio ufficio, dietro la mia scrivania, mi porta via un bel 2 metri quadri di spazio, e quindi da lì abbiamo cominciato a dedicarci alla tematica che poi sarebbe stata quella dell'Expo, con una serie di appuntamenti. Ti sei persa lo sguardo con cui ti guardava Biagio, che già pensava al testo per Lino al rapone, ma anche il nostro filosofo della scienza Temo Pievani, la filosofia del rapone, la filosofia importante, scorbutico tra l'altro, insomma, anche questo è un modo ovviamente per parlare di tematiche importanti ai giovani. Voi Expo l'avete comunque raccontato, sì, facendolo toccare. Sì, quella è la cosa importantissima, proprio partendo dal rapone, che abbiamo voluto portare fisicamente, proprio perché sappiamo che comunque con i nostri lettori, bambini ma anche gli adulti, è sempre importante l'esperienza. Per cui con Expo siamo andati prima di tutto in una scuola milanese che aveva aderito al progetto di Expo Scuola, per proprio parlare dell'orto che avevano coltivato durante l'anno scolastico, ed è stato il primo servizio. Poi un intero numero dedicato a Expo durante l'apertura, con anche 2 storie dedicate, 2 storie a fumetti, sempre sia nell'ambito dei paperi, anzi 3 storie, c'era anche una storia di Topolino, e Topolino personaggio, e un ABC, cioè che cos'è l'Expo spiegato ai bambini per cercare di dare una direzione. A metà percorso dell'Expo, quindi dopo 3 mesi, e i protagonisti sono diventati i nostri topo reporter, che è la parte più importante del giornale, cioè fare, realizzare esperienze e fare il giornale insieme ai nostri lettori. Per cui 6 topo reporter hanno raccolto delle esperienze Expo che hanno visitato in tutta libertà con i loro genitori e ci hanno stilato una classifica delle cose. E cosa hanno raccontato? Quali sono gli elementi? Questa è la guida dei topo reporter. Dei topo reporter che sorprendono sempre, perché magari noi grandi no, rimaniamo, c'è questo famoso padiglione giapponese. Bisogna riuscire ad andarci, no? Però in realtà è uscirci, e tutti, no, gli adulti vogliono andare al padiglione giapponese, ma i bambini no, cioè loro al primo posto mettono all'interno del padiglione della Repubblica Ceca l'esperienza fatta sulla bicicletta. La bicicletta fissa, pedala e crea energia per illuminare un pannello. Perfetto. Una fatica tremenda, anche perché alla fine di questa pedalata c'era la possibilità di buttarsi all'interno di una doccia di acqua nebulizzata che li ha fatti impazzire. Poi ancora, bellissimo, anche qui una cosa semplice però sempre da toccare, è nel padiglione del Belgio la nascita del cioccolato. Ok, quindi è eccezionale. Fascino, certo. E poi vabbè, l'esperienza del cinema 4D del padiglione del Kazakistan, proprio perché insomma si parla tanto di 3D, quando trovi una cosa che viene superata i bambini non sicuramente si sentono di fare un'esperienza che è un'esperienza unica solo per loro. È ancora l'esperienza della Cina, proprio con la simulazione del campo di grano con la distesa di luci LED, quindi qui siamo nell'ambito proprio dello spettacolo visivo, e poi tutti gli esperimenti nell'area di Slow Food che propone, certo, tantissime attività con le scuole, con i bambini, anche lì ti fanno toccare. E la cosa che mi ha colpito dell'esperienza di questi topo reporter, che tra l'altro continueranno a girare l'Expo anche nei prossimi, nell'ultimo insomma quasi 2 mesi che mancano, e quindi raccoglieranno altre esperienze, è questa: che tutti hanno voluto il passaporto, sì, il passaporto sul quale si stanno facendo timbrare le insomma, i viaggi che stanno compiendo, mi è piaciuto moltissimo perché mi immagino che questo sia anche un po' un augurio per loro, per quello che sarà nel futuro, l'idea di andare a conoscere veramente il mondo, non solo all'Expo ma anche fuori. Mettere il naso fuori. Però per loro è veramente un trofeo, cioè la prima cosa che mi hanno fatto vedere, abbiamo il passaporto con tutti i timbri, bellissimo, e quindi vuol dire che comunque hanno fatto un'esperienza che si ricorderanno. Ti do un'altra dritta che potrebbe interessare ai ragazzi, e lo facciamo con la professoressa Mariangela Giusti dell'Università Bicocca Milano, che è tra le promotrici del festival Il diritto di essere bambini, la quinta edizione, si terrà proprio qui ad Expo il 12, il 13, il 14 e il 15 settembre. Ciao Mariangela, benvenuta a Terra in Vista. Buonasera, grazie. Ciao Mariangela. Attenzione, ciao Telmo, buonasera. Grazie di questa attenzione al festival, vi ringrazio di questo spazio davvero. Sì, di cosa si tratta? Hai detto proprio bene, un'altra opportunità per i bambini, per i genitori, per le famiglie, ma anche per gli insegnanti e per gli educatori. Ecco, di cosa si tratta? Dunque, il festival è un'iniziativa dell'Università di Milano Bicocca, in particolare del Dipartimento di Scienze Umane per l'Educazione, e questa è la quinta edizione. La prima edizione c'è stata nel 2009, perché volevamo commemorare, ricordare la firma della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. Sì. E come farlo? Non farlo solamente per gli adulti, per gli addetti ai lavori, per gli insegnanti, ma lo volevamo fare proprio per i bambini e per i ragazzi. Dunque come? Allora ci siamo inventati questo format, ogni edizione del festival ha avuto una tematica centrale, un po' come avete fatto voi con la vostra bellissima trasmissione, mi permetto di farvi i complimenti. Per esempio la prima edizione, appunto quella del 2009, aveva al centro la scienza, e il professor Pievani Telmo fu uno degli ospiti, perché il festival è sì rivolto ai bambini, ma ogni volta ha delle occasioni, degli incontri, delle tavole rotonde rivolte agli adulti. Poi altre edizioni hanno avuto, non so, le lingue lontane oppure la musica. Ecco, questa edizione naturalmente ha al centro il cibo e tutto quello che può essere, tutti i percorsi di sensibilizzazione sui diritti, appunto sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, che mette al centro il tema del diritto umano fondamentale al cibo. E naturalmente enfatizzando l'importanza dell'adeguatezza, della sicurezza, della qualità alimentare, della sostenibilità. Perciò come vedete, tutte parole che ritornano, no? Le cose che avete detto. Tra l'altro mi ha colpito molto perché, vi dicevo del format, i giorni del festival sono 12, 13, 14, 15 settembre e le giornate sono organizzate con una serie di laboratori rivolti appunto a bambini, ragazzi, anche adolescenti, e ciascuno di questi laboratori mette in pratica uno o più articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. E mi ha colpito, parlava prima il vostro ospite Gianluigi Carbone, dei suoni delle verdure eccetera. Ci sarà un laboratorio condotto da un esperto musicale, professor Bove, che va proprio in questa direzione, perciò senza volerlo c'è subito questo collegamento, va proprio nella direzione di far sperimentare ai bambini e ai ragazzi le possibilità, certo, il piacere, il piacere dei diritti. Il mio preferito è sporcarsi è bello, i diritti naturali dei bambini e delle bambine. L'intero programma si può trovare sul sito, che ce lo vuoi ricordare? Il programma, per chi vuol venire, e noi veramente invitiamo più persone possibili, è tutto gratuito, non si paga niente, perciò coloro che sono già dentro Expo basta che vengano lì e sono i benvenuti. Sì, dicevamo appunto l'orario. C'è un sito per le informazioni? C'è un sito, dunque basta mettere su Google Festival Il diritto di essere bambini, quinta edizione. Perfetto. E vengono tutti i vari siti. Il primo naturalmente è quello della Bicocca, perché c'è, certo, il programma, ci sono tutto, i promotori. Ma ce ne sono veramente molti. Le studentesse si stanno sbizzarrendo, stanno facendo dei gruppi Facebook in modo da diffondere questa iniziativa. Ottimo, ti dobbiamo salutare perché è il tempo del traffico. Grazie davvero, buon festival. Ricordiamo da sabato 12 settembre a martedì 15 settembre. Il traffico poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Eccoci qua ancora con Terra in Vista, puntata live da Cibus e Italia, la nostra postazione all'interno del padiglione qui in Expo. Saluto e ringrazio Valentina De Poli per essere stata qui a testimoniare con tanti topolini, anche le tante storie, tutto il lavoro fatto per raccontare le tematiche ai più piccoli. Grazie, hai parlato anche di Terra in Vista e ci ha fatto molto piacere. Grazie a voi, adesso vuoi tornare a casa in la fiera dopo. Abbiamo della Verza in eccedenza, se vuoi. Perfetto, grazie. Grazie a voi e buon Expo. Telmo, saluto anche te. Ricordo che l'appuntamento sarà tra un'oretta alle 21 nella piazzetta della COP. Faremo questo live, il concerto, ma racconteremo anche di tanti viaggi di frutte e verdure. Però prima di salutarti, so che c'è un tema che ti sta molto a cuore ed è proprio legato al viaggio ed è legato alla strettissima attualità di questi giorni. Eh sì, perché ricordavamo come uno dei grandi temi emergenti di Expo è la diversità biologica e quella culturale. Beh, entrambe hanno avuto un grande motore sempre nella storia. Mi piace ricordarle in questi giorni, che sono le migrazioni. Noi non saremmo umani, non saremmo Homo sapiens se da addirittura 2 milioni di anni non avessimo mai smesso di spostarci. Noi siamo proprio sapiens perché non siamo mai stati nello stesso posto. Forse quando guardiamo oggi i problemi che ci sembrano contingenti, emergenti, sarebbe bello dargli un respiro molto profondo. Noi europei siamo i primi migranti da sempre, non siamo nati qui. E come sempre ti ringraziamo per le tue bellissime suggestioni. Terra in Vista, vi ricordo, tutte le puntate le potete riascoltare sul nostro sito radio24.it. Ho il piacere di salutare qua con noi Francesco Bizzini, ufficio stampa dell'associazione CSV, che abbiamo già conosciuto perché è il vero motore di Expo, cioè i volontari. Ciao Francesco. Insieme a te c'è Federica Filippi, che è un'insegnante e volontaria. Ciao, sì, Federica. Salve a tutti. Cosa fai ad Expo? Non devi essere a preparare... No, ho già preparato. L'anno scolastico. Ho fatto tutto. Prossima settimana ancora al mattino e dalla prossima pomeriggio, perché è mattino lezione. Fantastico. Ecco. Stai facendo il tuo periodo, i tuoi 15 giorni da volontario. I miei 15 giorni da volontario, perché l'Expo io lo conosco dal 2007. Abbiamo partecipato come scuola a un primo concorso che ci ha permesso di vincere ed essere a Parigi quando è stata data l'Expo a Milano con la classe, quindi l'istituto non poteva assolutamente non continuare il suo percorso con Expo. Ricordiamo, l'istituto è l'Istituto Maria Ausiliatrice qui di Milano. I tuoi ragazzi, i tuoi alunni li hai portati ad Expo? Li ho portati, ne ho già portati un gruppo prima, entro il 4 di maggio, 21 e 28 altre 4 classi. E quindi la maestra finisce il 19, il 21 rientra in feste di insegnante. Federica, c'è anche un progetto importante, conoscenze e promozione del territorio a chilometro zero, di cosa si tratta? Allora, l'istituto, appunto, proprio perché è un istituto di 900 ragazzi che vanno dalla materna al liceo, istituto professionale, ha continuato questo percorso e ha partecipato con un progetto. I ragazzi dello scientifico hanno sviluppato un'app Help Yourself che permetteva che permette tuttora di trovare chilometro zero all'interno della cerchia di Milano. Scuola media ha inserito i dati e quelli piccoli dei miei della primaria abbiamo raccolto i dati andando in ferpattorie. Questo è un modo per aiutare. Questa era la parte educativa. La parte di solidarietà, abbiamo lavorato tantissimo per 2 cisterne per l'acqua per Sud Sudan. Quindi siamo molto orgogliosi. Grazie davvero Federica, complimenti e buon lavoro, perché sei all'inizio delle tue 2 settimane, grazie. Quindi insomma è buon anno scolastico anche. Grazie. Francesco, in un minuto, non è ancora finito Expo, l'abbiamo già detto, però è un successo. È un successo dal punto di vista dei volontari. Sì, assolutamente, noi di CSV e CSV Net siamo felicissimi, sono passati da noi praticamente 13.500 candidature, poi sono 6.000 quelli attivi, come hai detto te, ma arriviamo al punto di questa situazione, ormai sta quasi finendo, dobbiamo arrivare alla valorizzazione di questo, perché la maggior parte di loro non ha mai fatto volontariato prima, quindi i centri di servizio del volontariato nazionale ingaggiano, vogliono chiamare in causa le associazioni per farsi avanti e dare una proposta a questa grande volontà di volontariato. E avremo un appuntamento qua, te lo devi segnare in agenda, il 20 settembre qua in Cascina Triulza, presenteremo oltretutto con l'Università di Verona, l'Università di Pisa e il professor Maurizio Ambrosini della Statale, i primi dati, perché abbiamo fatto un survey prima e dopo a questi volontari per capire il fenomeno del volontariato. L'Istat ci dice che 3 milioni di italiani fanno volontariato fuori dalle associazioni, spontaneamente. Noi l'abbiamo incontrato questo volontario spontaneo, perché la maggior parte di volontari qua non sono inseriti, e vogliamo capire come poter dare qualcosa indietro alle associazioni, al territorio, agli enti e anche, perché no, al privato magari. Insomma, anche questo è nutrire il pianeta di facce, teste, braccia, intelligenze, cuore, di passioni, emozioni direi. Grazie davvero Francesco. Tutte le informazioni e i contatti, vogliamo ricordare il sito internet? Allora sì, www.csv.org, e veramente invito tutti a passare dai centri servizi del volontariato su tutta il territorio nazionale, perché sono a vostra disposizione per entrare nel grande mondo del volontariato. Perfetto, grazie davvero. Chiudiamo con le Conciorta, abbiamo un minuto e mezzo. Che pezzo facciamo? Abbiamo un pezzo sulla zucchina. Ci piace? Sulla zucchina e sulla Julienne, una canzone d'amore. Dammi il sito per dedicata. Conoscere il vostro progetto, perché il sito non l'abbiamo, abbiamo un Facebook che è Conciorto, Bagini Carlone Conciorto. Perfetto. Questo è sufficiente. Siete per la sintesi, sì. Alle 21 siamo in diretta live dalla piazzetta della COP. Un grazie a tutto lo staff di Radio 24 anche per aver dato la possibilità a queste verdure di suonare. Io adoro la zucchina perché è nata un po' più verde di me, e senza sotterfugi è pronta senza indugi a diventare rondelle o julienne. E quando come Jules vado lì, mi aspetta dritta senza un plissé, gelata nelle fronde la cerco, si nasconde dentro un dipinto di Manet. Ah, Julienne. Siamo io e lei, e quando è pronta lo capirà. Noi qui continua nel nostro padiglione, nella nostra postazione all'interno di Cibus e Italia. Noi andiamo avanti con la musica. Grazie per essere stati con noi. Questo era Terra in Vista. Everybody, oh. Julienne.